America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Will the confessed NSA leaker Edward Snowden get extradited from Hong Kong? Bene, avete sentito, le televisioni americane continuano ad occuparsi a tutto campo di questa vicenda a metà fra lo spionaggio e il tradimento, uno sviluppo chiave abbastanza centrale. Il governo di Hong Kong ha fatto sapere attraverso canali informali al governo americano che potrebbe considerare l'estradizione di Ed Snowden, il funzionario prima della CIA, poi della National Security Agency, poi della Booz Allen, una delle più conosciute agenzie di consulenza del mondo, in piena crisi, devo dire, di credibilità. Pensate che ieri in borsa la Booz Allen ha perso quasi il 6%. My name is Ed Snowden, I'm 29 years old. Questa è la voce di Edward Joseph Snowden, 29 anni, si identificava come Verax, dal latino veritiero, quando si metteva in contatto per esempio con Bartok Geldman, il giornalista del Washington Post, uno dei due contatti, l'altro, lo ricorderete, era il contatto con Glenn Greenwald, il giornalista del Guardian. Qui racconta che l'obiettivo dell'intelligence è quello di raccogliere dati ovunque possibile, nell'assunto che questo sia necessario per l'interesse nazionale. Inizialmente queste operazioni sono molto mirate, dirette in particolare verso obiettivi esteri, ma sempre più spesso, dice, oggi vediamo come questi dati vengono raccolti indiscriminatamente anche sul territorio nazionale. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model. E questo è il punto chiave della sua confessione e rivelazione del perché ha deciso di rivelare questi segreti, anzi questi segretissimi del governo americano. Il pubblico, dice, doveva avere una spiegazione sulle decisioni che certa gente prende al di fuori della democrazia. Quando si cambia l'ordine del governo con intrusioni illegali, tocca al cittadino qualunque denunciare i soprusi. Io sono una persona normale, ma su questo codice di condotta deve decidere il pubblico. Beh, insomma, diciamo che definire Snowden una persona normale è un po' eccessivo, perché ha lavorato appunto per le agenzie più segrete del mondo, guadagnava $200,000 alla Hawaii, a un certo punto ha organizzato questa sua fuga molto programmata a partire dal 6 maggio, quando ha lasciato il suo appartamento, per arrivare al 20 maggio, quando poi, dopo aver fatto perdere le sue tracce, è partito dalle Hawaii per andare a Hong Kong fino al 6 giugno, data delle prime rivelazioni. Sappiamo che c'è stata prudenza da parte del Washington Post. Barton Gellman, il giornalista che era stato contattato da lui, racconta così di queste conversazioni via email un po' surreali. Lui era stato battezzato Brass Banner, ogni volta che si mettevano in contatto dovevano applicare dei codici speciali per garantire l'identità della persona dall'altra parte della linea. Insomma, un vero e proprio giallo, che rivela però anche come Edward Snowden fosse conscio che aveva fatto qualche cosa di molto grave e che stava o che aveva già violato la legge americana. They're a management and technology consultancy firm. Their main client is the United States government. Ecco, ma l'altra rivelazione, nelle rivelazioni devo dire, è che, lo avevamo già detto ieri, che questo signore lavorava per Booz Allen, lavorava da 3 mesi appena per Booz Allen. Chi è Booz Allen? Beh, Booz Allen è una delle più grandi compagnie, agenzie di consulenza del mondo. Prima era management consultants, come una McKinsey, come una Boston Consulting Group. In realtà, negli ultimi anni, Booz Allen, attraverso anche un percorso piuttosto particolare, a questo punto è specializzata nel fornire servizi al governo. Pensate che il 98% del suo fatturato deriva da commesse governative e che un quarto di quel 98% è specificamente mirato su consulenze di intelligence, di rilevazione dati, di interpretazione del traffico con paesi stranieri, insomma proprio quello per cui Snowden era stato assunto. E qui devo aprire una piccola parentesi, intanto per ricordarvi, l'ho detto prima, che Booz Allen ha perso quasi il 6% in borsa. Secondo, Booz Allen era stata comprata da Carlyle. Carlyle, che è una società di private equity fund, era stata fondata da un paio di investitori privati, ma aveva avuto il suo decollo più forte quando aveva preso come uno dei suoi uomini chiave Frank Carlucci, ex segretario per la difesa dell'amministrazione Bush. Poi una serie di personaggi, sia di amministrazioni repubblicane che democratiche. A un certo punto è proprio Carlyle che acquista Booz Allen, la tiene per alcuni anni sotto il suo controllo e la riorganizza da un punto di vista di rapporti con il governo, per poi portarla in borsa. Qual è un altro elemento di contatto interessante? Beh, James Clapper, di cui vi ho parlato ieri, che è il responsabile dell'intelligence di Barack Obama, era un altissimo dirigente di Booz Allen. E chi è oggi un altissimo dirigente di Booz Allen? Mike McConnell, che era stato l'equivalente di James Clapper nell'amministrazione di George W. Bush e tra i vertici di questo gruppo. Insomma, un intreccio che sicuramente richiederà qualche investigation da parte del Senato. Altra novità importante: si è scoperto che ci sono 1930 compagnie private che lavorano per il governo, assistendo il governo in operazioni di spionaggio. E qui emerge una contraddizione fondamentale. Il governo deve fare outsourcing perché non ha più i quattrini per potersi permettere certe spese. Ma se si comincia a fare outsourcing in un settore delicato come quello del controspionaggio, beh, allora dobbiamo davvero porci delle domande su che tipo di modello sta emergendo in una democrazia occidentale come quella americana, perché da un semplicissimo calcolo, pensate, solo a Booz Allen circa 5.000 persone sono occupate in operazioni di intelligence. Si calcola che ce ne siano più o meno un'altra 15.000, 20.000, stiamo parlando di 25-30.000 persone che nel settore privato lavorano su documenti top secret americani. Ecco, devo dire, è sorprendente che soltanto ora una di queste persone sia uscita allo scoperto. Non sappiamo se davvero per tutelare i suoi ideali di altruismo e di protezione della Costituzione o semplicemente per esibizionismo, perché a vederlo devo dire che l'ipotesi non è da escludere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, mi è tornata in mente questa canzone di Rockwell con un giovanissimo Michael Jackson, uscita nel 1984, l'anno in cui Orwell aveva collocato il suo grande fratello. Somebody's watching me. Qualcuno mi sta guardando. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!